listen to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Benvenuto a tutte e a tutti, questa è Oxygen, la trasmissione di musica elettronica di Radio Samarcanda Digital Network condotta da Amptech. Ho aperto con i due brani che Square Pusher ha rilasciato sulle piattaforme che anticipano l'album in uscita il 10 aprile per Warp Records, che si chiama Camer Concert, e dal tipo di proposta sonora che Square Pusher ha fatto con queste due tracce le aspettative sono indubbiamente molto alte. Attendiamo quindi che Warp faccia uscire il nuovo lavoro di Tom Jenkinson, mentre sotto la mia voce già c'è il singolo che invece hanno rilasciato, Si Feel, che si chiama Ever No Way. Thank you. E questi erano See Feel, nuovo singolo che prelude probabilmente un lavoro più lungo. E andiamo avanti con Jacob Alexander, un produttore attivo dal 2012 che rilascia questo lavoro che si chiama Window, dal quale ascoltiamo due tracce. Earthed Pearls, il nome del progetto. Listen to Oxygen, for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. We'll be right back. E questa è sempre Oxygen. Abbiamo ascoltato due brani dal lavoro Window di Hatred Pierce, ovvero lo pseudonimo di Jacob Alexander. Andiamo avanti con Lula York dal suo lavoro Live Compendium 2, chiaramente già dal titolo si evince che è un lavoro dal vivo. Lula York. Oxygen. Thank you. Oxygen. E questa era Lula York dal vivo Live Compendium 2, questa è sempre Oxygen, la trasmissione di musica elettronica di Radio Samarcanda Digital Network. E andiamo avanti con un progetto a quattro mani di Susan Chani con Actress che si chiama Concrete Waves. Susan Chani è un'artista negli ultimi anni oggetto di grande rivalutazione in quanto attiva nel settore elettronico fin dagli anni Ottanta, anche se i suoi primi dischi New Age lasciano un pochino a desiderare per una certa faciloneria. Susan Chani si è ampiamente riscattata come anche esperta dei sintetizzatori Buchla. Ascoltiamo due estratti senza soluzione di continuità da Concrete Waves, Susan Chani e Actress. Thank you. You're listening to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. E questi erano Actress e Susan Chani. Vi ricordo, siete all'ascolto di Oxygen, la trasmissione di musica elettronica di Radio Samarcanda, in voce con voi Amptech. Andiamo avanti con un'etichetta italiana che si è fatta notare già da alcuni anni per una serie di produzioni sperimentali che si muovono in territori limitrofi all'elettronica, anche se ogni tanto fanno uscire anche dei dischi più orientati al rock, una produzione un po' altalenante. E negli ultime settimane Maple Death Records ha rilasciato una serie di anteprime e una serie di lavori, alcuni dei quali di grande interesse. Partiamo con il primo. Si tratta di un'autrice, una produttrice che si fa chiamare Radio Ito, L'uso e gli attributi del cuore, il titolo dell'album. In realtà il suo vero nome è Nguyen Zen Mai, una artista che vive a Bruxelles, ma in realtà è italo-vietnamita. Radio Ito. Oggetto sentinella, una donna inginocchiata lo copre. Sono in compagnia di una mosca. Che parla dietro il vetro, il giorno non arriva. Thank you. perdiamo le lacrime. L'incidente corre sulle ossa. E questa è sempre Oxygen dalle frequenze di Samarcanda Digital Network, un lavoro pubblicato da Maple Death Records, l'etichetta italiana, se non sbaglio, di Reggio Emilia. Questo era il lavoro di prossima uscita di Radio Ito. Rimaniamo fra le artiste italiane, o perlomeno di origine italiana, in questo caso Francesca Bono e Vittoria Burattini, che realizzano un lavoro dedicato alla regista surrealista Maya Deren. Si intitola Ora sono un lago. Thank you. queste erano Francesca Bono e Vittoria Burattini da questo lavoro pubblicato da Maple Death Records che si chiama Ora sono un lago. Restiamo sempre su questa etichetta che ricordo che abbiamo già avuto occasione di presentare tra l'altro poche settimane fa, il disco di Mai Mai Mai Caracos pubblicato sempre da Maple Death Records. Un altro lavoro immediatamente successivo è quello dei Saba Saba, che sono un duo che pubblica una cassetta e in edizione limitata, chiaramente disponibile anche in formato elettronico, che si intitola Detriti. Saba Saba. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E questi erano Saba Saba, il lavoro si intitola Detriti, pubblicato da Maple Death Records, un'etichetta molto interessante rispetto a quelle che sono le produzioni underground italiane, specialmente quelle più sperimentali, anche se qualche volta fa delle uscite un po' più new wave, un po' più rock. Andiamo avanti con un altro lavoro, si intitola We Used to Speak the Same Language, pubblicato da Control Freak Recordings, il lavoro di Memory Play, ovvero Joseph Kaspar. We'll be right back.

e questa è sempre Oxygen, in voce con voi Amptech. Abbiamo ascoltato due estratti da We Used to Speak the Same Language, il nuovo EP di Memory Play, e andiamo avanti con Moi, nuovo singolo rilasciato sulle piattaforme. Mm-hmm. Questo era Moi, il nuovo singolo che si intitola Tardigrade, un autore, un produttore che ci evoca spesso sonorità tipiche dell'IDM degli anni 90. Andiamo avanti con PDQB, un artista di cui l'identità ignoriamo completamente, che pubblica per Synaptic Cliffs un extended play di 6 brani che si intitola Future Traumatic Stress Disorder. Thank you. listen to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E questo era PDQB dal suo nuovo Extended Play che si chiama Future Traumatic Stress Disorder. Ma andiamo avanti con una pubblicazione di Analogical Force. Il titolo è Iterations e il produttore è Rabbi My Dear. We'll be right back. Questo era Rabbi My Dear su Analogical Force, ma spostiamoci verso un progetto storico dell'electro di Detroit con Der Zyklus, nuovo singolo che si chiama Truth Matrix, pubblicato dalla Clone. We'll be right back. ricordo che siete all'ascolto di Oxygen, in voce con voi Amptech. Vi ricordo anche che i nostri podcast sono riascoltabili sul sito www.musicamachina.com. Abbiamo ascoltato un estratto da Truth Matrix, nuovo singolo di Der Zyklus sulla Clone. Andiamo avanti con Marco Passarani, una delle figure più importanti della scena romana storica, che pubblica un album che si chiama Analog Fingerprints Volume 0. Marco Passarani. You're listening to Oxygen. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Thank you. oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is oxygen. Questa è sempre Oxygen in voce con voi, Amptech. Abbiamo ascoltato due estratti da Analog Fingerprints, volume 0 di Marco Passarani. Andiamo avanti con John Tejada, dal nuovo singolo che si intitola Who Is Afraid, pubblicato da Palette Recordings. John Tejada. We'll be right back. questo è sempre Oxygen. Vi ricordo che la nostra trasmissione è ascoltabile sia tramite DAB che tramite streaming sul sito www.radiosamarcanda.it. Andiamo avanti dopo John Tejada con KNTZ, dietro al quale si nasconde il nome di Ilja Generalov. L'album pubblicato il 27 marzo su Incense si chiama Cicatrization. Thank you. siete sempre all'ascolto di Oxygen. Dopo KNTZ Cicatrization chiudo lo spazio in voce della trasmissione di questa sera con un nome insomma ormai abbastanza conosciuto anche in Italia, Robert Hood, direttamente da Detroit, che sta disseminando di singoli la rete The Grey Area. Robert Hood. Turn up the volume.